È Natale, il primo Natale di guerra. Non c'è pace né. I tedeschi sognano le loro antiche leggende, i loro cori, i loro abeti, il loro San Nicola. Se in trincea c'è una candela da accendere, a chi rivolgeranno un pensiero? I francesi sognano Parigi, anche quelli che non ci sono mai stati, e la pensano ancora splendente di luci. Gli inglesi confidano nella nebbia, non vedranno la stella cometa, ma non sentiranno neppure le sirene che annunciano la Luftwaffe. 1940. Continuiamo a cantare. Andando con lacrime agli occhi. E infatti non c'è da stare allegri. Si inizia la distribuzione delle carte annonarie, ricordate? Tanti punti per le scarpe, per le camicie, tanti bollini per lo zucchero, per il pane, per il burro. Incolliamo strisce di carta sui vetri, dipingiamo di azzurro le lampadine. La cantina viene trasformata in rifugio, si costituisce l'umpa, tetragine nei bar, carcadè e saccarina. Il caffè, dicono, fa male. Comincia a far male un po' tutto, anche l'olio d'oliva, la carne, il sapone. Nostro padre diventa capo fabbricato. Siamo autorizzati ad allevare galline in terrazza, piantiamo cavoli e insalata nei giardini comunali. Non c'è pace neanche per le bestie. Il cane se la cava, ma il gatto si sente molto osservato. Dobbiamo subito stabilire se il borsaro nero è un essere disgustoso o un benefattore. Ci adattiamo alla seconda interpretazione. Alle 10 si provano le sirene. Disturba se le risentiamo? Vanno bene. Vanno bene anche i tedeschi. Invadono la Danimarca e la Norvegia. Poi l'Olanda e il Belgio. Poi girano la Maginot, arrivano a Parigi. E la Blitzkrieg, la guerra lampo. In Italia invece non si sa ancora che cosa Mussolini e Vittorio Emanuele III stanno preparando per noi. Sono ore incerte. È un mezzo lieve, ma forse riuscirà a farvi ritrovare qualche atmosfera di quei giorni. Cantavamo queste canzoni. Musica divina, tu che m'hai preso il cuore, non sai che il canto d'un violino. Se io fossi milionario, quante cose vorrei far. Cento ed una pazzia, un capriccio. E piove vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già. Cosa vorresti dire? Cosa vorresti fare? Ma anche le canzoni si adeguano. In un paese come il nostro può essere un sintomo. Spadaro cambia repertorio. Stavamo facendo una cuffia bianca, una cuffietta piena di fiocchi, 12 cuffie per i marmocchi. Un giorno scuotesi tutta la terra. 10 giugno 1940. Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ascoltate. Un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. Decisioni irrevocabili! la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Sapremo poi che al duce bastavano poche centinaia di morti per potersi sedere al tavolo della pace. La pace costerà tanto di più. Cade Parigi e la fine della nostra vecchia, cara, dissennata Europa. Penetriamo in territorio francese quando la Francia è ormai boccheggiante. Sembra tutto facile. Nasce una parola d'ordine. Vincere! Vi prometto lacrime e sangue, dice Churchill al popolo inglese. Ascoltiamo la voce di Winnie. One of the most remarkable features of this war has been the partnership which has been carried on between the Royal Navy and the Royal Air Force. Chi ardirebbe al suo posto promettere la vittoria con un semplice gesto della mano? A Dunkerque oltre 300.000 Tommies riescono a imbarcarsi e a rientrare in patria. Rivedranno ancora queste spiagge. Inizia la distruzione di Londra. Si inventa un verbo, coventrizzare. Nasce una comicità nuova. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale. Chi sta bene, chi sta male, e chi sta come gli par. Renato Ranucci, Raschel, inaugura un linguaggio strampalato. Nella notte profonda sembra che uno gliel'avesse detto, invece non gliel'aveva detto. Che poi tanto anche se gliel'avesse detto, quello lì non ci sentiva. Sa come succede in queste cose qua. Forse rispecchia i tempi. Nutriamo il nostro spirito con le barzellette. Vuoi sapere come si fa a collaudare un ponte? Eh? Ci si fa passare sopra un camion carico di gerarchi. Se il ponte resiste, bene. E se non resiste? Meglio. Gli umoristi fanno quello che possono. Dobbiamo a Mosca, Guareschi, Marotta, Campanile e Metz qualche fremito di libertà. Un gregario di Bartali vince il Giro d'Italia. Si chiama Fausto Coppi. Quando l'autunno fa cadere le ultime foglie, ci mettiamo in testa di spezzare le reni alla Grecia. Ma la Grecia ha la schiena robusta. Una mattina ascoltiamo una strana canzone. Inizierà un genere. Camerata, Richard, benvenuto. Dammi il tacco, si scivola, vada. Il nemico è al di là della strada. Radio Belgrado, agli inizi del 1941, apre la stazione in lingua tedesca con un disco preso a caso. Sono parole e sentimenti semplici che tutti capiscono. È una canzone senza stellette. La nostra Lale Andersen è Vivi Joy. Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. In Africa, dopo l'eroica resistenza, cade Jarabu. Il maestro Ruccione celebra l'avvenimento. Nel deserto con noi c'è l'Africa Corps, c'è Rommel. Arriviamo a due passi da Alessandria. Fate piano. Adela Lamein, lasciamo 7.000 ragazzi nel bianco palazzo dei morti di quota 33. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. È Stalin. Как могло случиться? Ma mobilita i popoli dell'Unione Sovietica per resistere all'inesorabile avanzata dei tedeschi. Ci serve qualche caduto anche in Russia. Prima mandiamo un corpo di spedizione, ma ci sembra poco, e quindi parte un'intera armata. Scompariranno quasi tutti in una bufera di neve. Si allunga la corona dei morti nelle mani delle madri. A 6.000 chilometri sull'Amba Alagi, gli inglesi hanno presentato le armi al duca d'Aosta e al valore sfortunato dei suoi soldati. L'impero è perduto. Non lasciamo dove siamo passati un brutto ricordo. Abbiamo costruito strade, case, scuole, ospedali. Abbiamo giocato con i bambini. Abbiamo fraternizzato con i grandi. Anche questo è un bilancio. Gli inglesi ci avevano un giorno rimproverato. Gli italiani sbarcano cannoni e banchi di scuola. Restano i banchi. Si combatte anche la guerra dei microfoni. Buonasera. Se Mussolini avesse capito gli eventi della guerra dopo il 10 giugno 1940, meglio di quanto non li avesse capiti prima, egli si sarebbe reso conto che il 15 settembre... Buonasera anche a lei, colonnello Stevens. Nel suo rifugio di Bushhouse a Londra non sta poi tanto meglio di noi. E buonasera anche a lei, signor Candidus. È nostro convincimento che l'Italia riuscirà a superare vittoriosamente la presente fase critica. Aiutate, se gli alleati vi aiutano. Non tutte le sue promesse saranno mantenute, ma stiamo imparando ad essere realisti. Vi rimando, Mario Apelius intuisce che da soli non ce la faremo e chiede l'intervento divino contro gli inglesi. Ma Dio non si arruola. Allora si adatta ad augurare al nemico la mala notte. Comincia il martirio delle nostre città. Dal cielo rotolano valanghe di fuoco. Roma è bombardata. Il Papa torna dalle borgate di San Lorenzo con la bianca veste macchiata di sangue. L'umanità intera ci aspetta giustizia, pane, libertà, non ferro che uccide e distrugge. Abbiamo la guerra in casa, non riusciamo a fermarli sul bagnasciuga. La Sicilia è occupata, l'ultima resistenza è nella piana di Catania. Non c'è più nulla da fare. Le donne pensano, stavolta è finita, tornano a casa. Tentano ancora di galvanizzare il paese, ma è una vecchia musica che gli avvenimenti stanno sommergendo. Luglio 1943. Alle ore 22:45 Leier interrompeva i programmi e l'annunciatore arista leggeva: attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere, maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio. Continuerà la guerra? Continuerà. Ci prepariamo agli eventi. L'8 settembre non è lontano. Lentissimi, i treni senza più orario riportano a casa i nostri ragazzi. O li portano lontano. Il 12 settembre il capitano delle SS, Scorzeni, libera Mussolini, alloggiato in un albergo del Gran Sasso. Nessuno fa resistenza. È costituito il Partito Fascista Repubblicano. In un discorso alle forze armate nel Teatro Adriano di Roma, Graziani dice: la lotta, signori ufficiali, camerati, è al coltello! Al coltello! E questa è la lotta che dobbiamo... Posso anche annunciarvi che il Comando Supremo Germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituirà con le nostre divisioni e con aggiunta di alcune divisioni germaniche al mio diretto comando. Attueremo una collaborazione tra comandi e tra soldati che dovrà essere anche qui la rivendicazione di tutti gli errori, ammettiamo pure, di tutte le diffamazioni, di tutte le calunnie del passato. Dimostreremo che in un solo blocco italiani e tedeschi combattono per un'unica finalità, il trionfo del nazifascismo. Il re e Badoglio se ne sono andati nel sud. Al ritorno troveranno che molte cose sono cambiate. Quattro parole d'inglese e cominciamo a impararle sui dischi americani. You saw me standing alone, without a dream, to you upon my knee, tea for two and two for tea. Faremo la nostra figura. Have you chocolate? Have you cigarettes? Le notti, fra un bollettino e l'altro, sono popolate dalle canzoni del capitano Glenn Miller. In tutti i ghetti d'Europa, nelle case vuote lasciano un segno, la svastica. Se incontri un ebreo e gli chiedi «vai lontano», lui risponde «lontano da dove?». Attraverso la Croce Rossa mandiamo pacchi in paesi sconosciuti e impariamo una parola nuova, «lager». Molti nostri ragazzi tornano a combattere. Si ricostituisce l'esercito regolare. Partecipa con gli alleati alla liberazione del territorio invaso. Arrivano i primi messaggi speciali. I portici sono lunghi. Che cosa vorrà dire? Lo sanno i ragazzi delle brigate che operano in montagna, braccati. L'Italia è divisa in due, è la nostra più grande tragedia. Ci uccidiamo nelle strade, sui monti e, quel che è peggio, nei tribunali. È il momento degli esempi. Al poligono di Verona i gerarchi che hanno tradito ci lasciano un'Italia che col loro gesto non potevano salvare. Troppo tardi. Cadono Ciano, De Bono, Marinelli, Gottardi e Pareschi. A Marzabotto vengono trucidate 1800 persone. La linea gotica attraversava una scuola di campagna. A un certo momento la porta si aprì. Io vidi che i tedeschi avevano le bombe a mano in mano. Uno disse: gente, dite l'atto di dolore che ci ammazzano tutti. Non fece pieno in tempo a dire così, che cominciarono a buttare dentro le bombe e a sentirsi gli urli, la gente provava a scappare, ma dove, che non potevamo uscire da nessuna porta. Per i 49 persone ci siamo salvati in tre, di 16 bambini ci sono morti 14, e le persone che erano rimaste vive non facevano altro che... Certe cose prima o poi si pagano. Stalingrado resiste, l'operazione Normandia segna l'inizio della fase risolutiva della guerra. Il Vallo Atlantico, orgoglio della TOT, mito del cemento e dell'acciaio, è in polvere. Il 20 luglio gli attentatori di Hitler gli bruciano i pantaloni. Anche Rommel è in disgrazia, romperà con i denti una fialetta di cianuro. Il 25 agosto Parigi è liberata. Gli alleati, il 4 giugno 1944, entrano a Roma. La città eterna applaude. Scarseggia il pane, la luce, l'acqua. Spuntano le camionette e le bancarelle, il DDT, gli Shusha, le signorine, Rita Hayworth e Veronica Lake. Tutto si compra e tutto si vende. L'americani de giorno e li negri de sera se vendono l'America tutta la borsa nera. Una mattina su un muro appare una scritta. Andatevene tutti, lasciateci piagne soli. Qualcuno, pur condividendo, pensa sia utile cancellarla. Con gli americani si mangia. Viva la Francia, viva la Spagna, purché se magna. È un vecchio, cinico, doloroso motto italiano che ogni tanto diventa d'attualità. Ci vorrà quasi un anno prima che il cerchio attorno alla Germania sia saldato. Ogni giorno però si avvera qualcosa. La conclusione è sempre più vicina. A Dongo Benito Mussolini viene fucilato. Gli cade accanto una donna che ha voluto seguirlo fino in fondo. In un bunker della cancelleria di Berlino Adolfo Hitler si toglie la vita. Anche accanto a lui c'è una donna. L'ammiraglio Dönitz annuncia che la Germania depone le armi. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer und Ehrfurcht. Il 6 agosto 1945, un bombardiere B-29, al comando del maggiore Farewell e pilotato dal colonnello Tibbet, sgancia un ordigno spaventevole su Hiroshima, colonna di fuoco. Sotto questo cupo ombrello 100.000 persone sono morte. Da quel giorno ogni tanto morirà qualcuno colpito da mali sconosciuti. Diagnosi, l'improvviso bagliore del 6 agosto. Nel mondo lentamente scompaiono i rumori della morte. Gli è rimasto circa la strada che porta a casa. Ci guardiamo attorno per contarci e spesso non ci riconosciamo. Comincia un altro dramma, quello del reduce. Un grande scrittore dice: ormai ci sono tanti morti nella mia vita, ma più morto di tutti è il ragazzo che io fui. I vincitori vanno a casa a prendere la loro parte di abbracci e di fiori. Il napoletano, un vecchio popolo che è il genio della pietà e della letizia, ammonisce. Chi ha avuto, avuto, chiarata, aratarata, scurdammi ciò passato, si me dopo lo paesà. Benedetto Croce, a nome di tutti noi, si confessa. Noi italiani abbiamo perduto una guerra e l'abbiamo perduta tutti, anche coloro che l'hanno deprecata con ogni loro potere, anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l'ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l'opposizione a questo regime, consapevoli come eravamo tutti che la guerra sciagurata, impegnando la nostra patria, impegnava anche noi, senza eccezioni, noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte. Ma la guerra è finita ed è questo che conta. Forza, si ricomincia. Siamo un po' storditi. Vogliamo vivere. Vogliamo soprattutto dimenticare. Vogliamo rientrare nei giorni del sole e del grano. Avete rivissuto con noi 10 anni della nostra vita.